si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno, buon sabato cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, staremo insieme sino alle 10, un'occhiata alle prime pagine dei giornali, le nostre buone notizie, il bello dell'attualità che cambia, diciamo noi, subito i nostri contatti per interagire con noi in tempo reale, l'account Twitter del programma @ Si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi. Cominciamo subito come ogni mattina con una buona notizia. And now, the good news! Oggi per trovare una buona notizia non occorre andare a cercare chissà dove sui giornali, anche se non in prima pagina. La notizia è questa: pedaggi ridotti fino al 20% per i pendolari delle autostrade. Il ministro Lupi lo aveva annunciato, tra l'altro anche proprio a Radio 24 all'inizio di gennaio, che c'era in campo questa proposta. Ebbene, ieri è stata presa l'iniziativa col Consiglio dei Ministri, uno sconto secco del 20% fino a 100 km percorsi ogni giorno. Ieri Lupi ha presentato la sua proposta per fronteggiare e attutire il peso del caro pedaggi. Per gli automobilisti lo sconto diventerà operativo a partire da febbraio, sarà applicato sul conto Telepass a fine mese e scadrà a dicembre 2015, quando tutte le tariffe verranno riviste. Il meccanismo per poter accedere allo sconto è questo: avrà accesso alla riduzione del ticket chi utilizzerà per 20 volte al mese il percorso di andata e ritorno, e quindi percorrerà 40 volte questa tratta su un tragitto definito da casello a casello, al massimo 100 km, 50 andata e 50 ritorno. Quindi se fate 50 km al giorno all'andata e al ritorno per almeno 20 volte al mese avete diritto, credo però utilizzando il Telepass, credo che questo sia richiesto, a uno sconto del 20%, e insomma non è poco, e questa è una buona notizia per iniziare. Dalla Repubblica di oggi in prima pagina però si parla invece molto delle altre decisioni del Consiglio dei Ministri. La vendita, insomma, la privatizzazione delle Poste, dell'ENAV, ma anche le mosse, le manovre attorno alla questione che riguarda la riforma della legge elettorale. Poi ci sono anche le inchieste sulle spese pazze in un nuovo consiglio regionale, quello dell'Abruzzo, che ha investito la giunta di centrodestra guidata da Chiodi. Ma iniziamo subito, dicevamo, con il Consiglio dei Ministri di ieri. Partono le vendite di Stato, titola il Corriere della Sera. Poste e ENAV sul mercato, sconto ai pendolari delle autostrade, come dicevamo, sanzioni ridotte per il rientro dei capitali, perché c'è anche questa norma, vedremo sul Sole 24 Ore di cosa si tratta. Altro titolo del Corriere riguarda l'Italicum, perché c'è un sondaggio di Nando Pagnoncelli che dice 6 su 10 approvano l'Italicum, cioè gli italiani per la maggioranza al momento, per quello che si sa, approvano diciamo, l'intesa di riforma della legge elettorale portata avanti da Renzi dopo l'accordo con Berlusconi. Poi c'è anche il caso milanese, strano caso della polvere misteriosa che copre le strade di Milano, effetto neve, ma non è neve, è una misteriosa polvere grigio-brunastra, la coltre, che copre il quartiere est di Milano. Gli abitanti giurano che è colpa del cantiere della metropolitana 4, ma i responsabili dei lavori negano che sia così. C'è stato ieri anche la nomina di Giovanni Toti, ex direttore del TG4 e di Studio Aperto, come consigliere politico di Forza Italia. Un incarico tutto da decifrare. Consigliere politico può voler dir tutto o non voler dire niente. Si cerca probabilmente di non umiliare, come ha detto Fitto, la classe dirigente di Forza Italia con una nomina totalmente esterna. Tant'è, c'è la foto sul Corriere di Toti insieme tra l'altro a Maria De Filippi e a Pier Silvio Berlusconi. Ieri i dirigenti di Mediaset erano in udienza privata dal Papa. Non so per quale ragione, ma insomma la giornata di ieri di Toti è stata rocambolesca, perché prima l'udienza dal Papa, poi le dimissioni da direttore del TG4 e Studio Aperto e l'annuncio alla fine della nomina consigliere politico nomina appunto immaginata negli ultimi giorni, scrive il Corriere della Sera, dal Cavaliere, che in questo modo mette la prima pietra sul rinnovamento del partito senza formalmente umiliare il vecchio gota forzista. Dunque, spazio per Giovanni Toti. Vedremo insomma dove porterà questa nomina e che ruolo avrà soprattutto Toti, si diceva coordinatore del partito o forse qualcosa meno, consigliere politico al momento. Sulla prima pagina di Repubblica il tema della legge elettorale è affrontato così: Renzi e Letta alla resa dei conti. Perché la legge elettorale, anche Franceschini si schiera con il segretario, pioggia di emendamenti in commissione, Napolitano dice accelerare sulle riforme, il sindaco sì al conflitto di interessi, ma non mi sabotate, preferenze e scontro. Allora, che succede? Che Renzi difende l'accordo sulla legge elettorale, non vuole strappi, e al premier Letta replica: spero si faccia anche una legge sul conflitto di interessi, ma non credo che il premier usi questo pretesto per sabotare l'accordo, perché Letta ha alzato la posta e ha detto: va bene fare la legge elettorale, ma facciamo anche una legge sul conflitto di interessi. Renzi però teme che questo alzare l'asticella sia un modo per come dire, per spostare forse anche tutto l'insieme del problema più in avanti e allungare la vita del governo a sfavore di questa riforma invece della legge elettorale. E leggiamo all'interno di Repubblica questo piccolo retroscena: i Dem nella tana del lupo di Forza Italia, la delegazione renziana a casa di Verdini. Guerrini, il portavoce di Renzi, che dice: ora capisco cosa può avere provato Berlusconi quando è venuto nella nostra sede. Cosa è successo? Che questa volta è toccato a loro entrare nella tana del lupo dopo l'incontro di Berlusconi con Renzi nella sede del Partito Democratico. Sono stati invece Maria Elena Boschi con Lorenzo Guerrini e Roberto Dalimonte a varcare alle 9 del mattino il portone di Forza Italia, ricambiando la visita fatta da Berlusconi al Nazareno. Dall'altro lato del tavolo, del grande tavolo, in quello che normalmente sarebbe la stanza del presidente, non c'era il presidente, ma c'era Verdini e poi chi c'era? Anche Francesco Paolo Sisti, un personaggio da sempre rimasto e poi un personaggio da sempre rimasto nell'ombra, che è Paolo Zonfrilli, il mago dei numeri, che guida il centro elaborazione dati di Forza Italia. Quindi questo incontro, il terzo, sarebbe tra la delegazione del PD e quella di Forza Italia, questa volta nella sede di Forza Italia. Qual è il nodo sulla legge elettorale? Le preferenze, perché il nuovo centrodestra di Alfano ha già annunciato che presenterà un emendamento per contro i listini bloccati, a favore delle preferenze, spaccando così diciamo la maggioranza che al momento sostiene il testo base, che è PD, Forza Italia, Nuovo Centrodestra e Scelta Civica. Quindi il Nuovo Centrodestra rischia di sfilarsi, propone questo emendamento per le preferenze, e che rischia di trovare spazio perché anche una parte del Partito Democratico e dei centristi vorrebbero le preferenze, non le vuole solo Berlusconi. Staremo a vedere come va a finire. C'è poi anche un altro tema ipertecnico, scrive Repubblica, che è quello dei la riscrittura delle nuove circoscrizioni, che potrebbe essere assegnata o alle Camere o al Ministero degli Interni, cioè ad Alfano, e Forza Italia spinge perché sia assegnato alle Camere e non ad Alfano, perché evidentemente temono che Alfano possa ridisegnarle queste circoscrizioni. Sapete, sono cose tecniche, ma che poi hanno un risvolto, un punto di caduta importante sui risultati elettorali. Insomma, si teme che Alfano possa poi manovrare questa cosa. Dicevamo sul Sole 24 Ore di oggi la notizia relativa al rientro dei capitali. La manovra varata ieri dal governo, senza sconti sulle tasse però, ridotte le sanzioni, scudo per i reati. Slitta invece l'autoriciclaggio. Leggiamo: via libera del Consiglio dei Ministri al decreto con le norme sulla voluntary disclosure per favorire, chissà perché tutti i nomi inglesi usiamo, per favorire il rientro dei capitali occultati all'estero, tasse integrali, sanzioni ridotte e restringimento dell'azione penale per le omissioni dichiarative commesse fino al 31 dicembre scorso. Il premier Letta dice: non è uno scudo perché non c'è più l'anonimato, le risorse andranno al taglio delle tasse sul lavoro. Noi ci fermiamo qui, facciamo una pausa, anzi diamo la linea alla rassegna stampa europea, poi torniamo ancora con i giornali di oggi, dopo il giornale radio e anche con l'800 24 0024, dopo il giornale radio. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati cari ascoltatori con Si può fare alle 7.30 sino alle 10. Vi ricordiamo che potete interagire con noi in tempo reale. Il mio account su Twitter è @ Ale Maurizi, quello del programma è @ Si può fare 24 800 24 00 24. Aspettiamo anche i vostri interventi in diretta come sempre ogni sabato e ogni domenica mattina per commentare quello che sentite, la rassegna stampa, gli approfondimenti e poi anche per chiamarci anche questo sabato a raccontare che cosa ha reso più bella la vostra settimana. 800 24 00 24, i racconti più belli vincono anche oggi i biglietti per la mostra di Munch a Genova, a Palazzo Ducale. Ma riprendiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali con per esempio La Stampa, che titola riforme, tutti contro tutti. Alfano annuncia emendamenti, Forza Italia, le liste bloccate non si toccano. Di cosa stiamo parlando? Allora, vediamo un piccolo approfondimento dentro nelle pagine interne del Quotidiano di Torino. I quattro punti su cui per esempio non si tratta e su cui ci sarebbe, diciamo, un accordo più ampio: il disegno dei collegi, che dovrebbe spettare al Ministero degli Interni, anche se c'è la preoccupazione per il doppio ruolo di Alfano, che è Ministro degli Interni e leader del nuovo centrodestra. Le preferenze: si allarga il fronte di chi non vuole le liste bloccate, ma Forza Italia è fermamente contraria. L'altro punto che non sarebbe derogabile è la soglia del 35%. C'è chi la ritiene troppo bassa come soglia per far scattare il premio di maggioranza, ma la soglia raggiunta, l'equilibrio, è frutto di un delicato equilibrio, scrive appunto La Stampa. L'altra cosa su cui, diciamo, non si tratterebbe è l'alternanza di genere. Ci possono essere fino a due candidati consecutivi adesso dello stesso genere, invece si vuole andare verso l'alternanza uomo-donna, uomo-donna. I punti invece aperti sono questi: il salvalega, possibile un emendamento che tuteli i partiti con grande radicamento territoriale come la Lega Nord, lo sbarramento, i partiti in coalizione devono raggiungere il 5%, possibile però che venga abbassato al 4%, anche perché qualcuno segnala un possibile effetto distorsivo, cioè di partiti che ottenendo basse percentuali, non superando la soglia di sbarramento, pur essendo alleate con un partito grande, contribuiscano a far ottenere il premio di maggioranza al partito più grande, pur non entrando in Parlamento, quindi senza seggi. Insomma, aiuti il partito più grande a vincere, ma tu non vinci. E questa è una cosa su cui si sta lavorando. L'altra cosa che è possibile venga modificata rispetto al testo base che è stato votato ieri dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera è questo: le candidature plurime, cioè potrebbe essere reintrodotta la facoltà dei candidati di presentarsi in più circoscrizioni, anche se la bozza della legge, ricorda La Stampa, adesso lo impedisce. Cioè, ricordate, no? Quasi tutte le elezioni ci sono candidati leader dei partiti che si presentano ovunque e poi dopo, solo dopo, scelgono dove sono stati eletti, quindi a ruota i secondi eletti che diventano a loro volta eletti. Scusate il gioco di parole. Anche il Corriere della Sera si occupa delle riforme con in prima pagina il sondaggio di Nando Pagnoncelli, che dice 6 italiani su 10 approvano l'Italicum, e a sinistra viene approvato il patto con Berlusconi. Insomma, secondo Pagnoncelli, in questo sondaggio c'è un gradimento maggioritario di oltre il 60% degli italiani nei confronti di questo testo di riforma della legge elettorale, se non altro perché sembra che qualcosa di concreto si stia toccando con mano per la prima volta. Repubblica parla di Renzi e Letta alla resa dei conti sul tema appunto delle riforme, perché il Presidente del Consiglio ha chiesto che si introduca anche il tema del conflitto di interessi all'interno della legge delle riforme insieme alla legge elettorale, ma Renzi dice sì, va bene, però non vorrei che Letta strumentalizzasse questo, per allungare i tempi di vita del governo. Non viene detto esplicitamente, ma è questo il nodo che fa titolare a Repubblica. Renzi e Letta alla resa dei conti. All'interno di Repubblica leggiamo anche del incontro, il terzo che c'è stato, il retroscena, l'incontro questa volta alla sede di Forza Italia. Idem nella tana del lupo di Forza Italia, la delegazione renziana a casa Verdini, con Guerini, il portavoce di Renzi, che dice: ora capisco cosa può avere provato Berlusconi quando è venuto nella nostra sede. Succede che Maria Elena Boschi con Lorenzo Guerrini e Roberto Dalimonte, professore, editorialista del Sole 24 Ore, adesso tecnico che lavora con Renzi sulle riforme elettorali, hanno varcato alle 9 del mattino il portone di Forza Italia, ricambiando le visite fatte da Berlusconi al Nazareno. Dall'altra parte del tavolo a cui si sono seduti c'erano il dominus di Forza Italia per le riforme Verdini, ma anche Paolo Sisto, che è il relatore della legge in Parlamento, e anche un personaggio, scrive Repubblica, da sempre rimasto all'ombra, Paolo Zonfrilli, il mago dei numeri che guida il centro elaborazione dati di Forza Italia, così Repubblica. A proposito invece delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri di ieri, il Sole 24 Ore ci ricorda il rientro dei capitali senza sconti sulle tasse. Succede che quello che è stato approvato ieri è, dice Enrico Letta, non è uno scudo fiscale, perché non c'è più l'anonimato, ma è appunto un, viene definito, voluntary disclosure per favorire il rientro dei capitali occultati all'estero, tasse integrali, sanzioni però ridotte e restringimento dell'azione penale per le omissioni, che vengono però dichiarate fino al 31 dicembre scorso. Altro tema che tocca il Sole 24 Ore oggi in edicola è questo: venerdì nero per borse e spread, la giornata di ieri. Perché? Perché gli emergenti, i paesi emergenti, affossano i mercati. Gli operatori, scrive il Sole 24 Ore, sono preoccupati per la crisi valutaria che sta colpendo diversi paesi emergenti, in testa Argentina e Turchia, ma anche il Brasile, cioè le monete troppo basse che scuotono gli scambi finanziari internazionali, le monete basse dei paesi emergenti, e secondo appunto il Sole 24 Ore, secondo gli operatori soprattutto, diciamo, hanno contribuito ad affondare ieri i mercati finanziari, anche se il governatore Draghi da Davos ha parlato poi da un altro punto di vista di segnali molto incoraggianti per l'economia e la finanza dai mercati. Libero si occupa invece di un'altra notizia. Dice: dopo il Cavaliere, i PM ora puntano Renzi. E uno potrebbe pensare che c'è un'inchiesta su Renzi. Invece la notizia è questa, la notizia di Libero è questa. L'ex consigliere di D'Alema, Claudio Velardi, lo avverte: a Firenze si lavora per trovare scheletri nei tuoi armadi. È la solita magistratura che vuol mantenere il potere sulla politica. Se il segretario PD la riforma, diventiamo renziani. Gli occhi dei PM, leggiamo dall'articolo di Maurizio Belpietro, il fondo, sarebbero rivolti verso il nuovo che avanza, cioè Matteo Renzi. Parola di Claudio Velardi, uno che di queste cose se ne intende. In due interviste al Quotidiano Nazionale e al Libero, l'ex consigliere di Massimo D'Alema avvisa il sindaco di Firenze: occhio Matteo, i magistrati sono terrorizzati da te, faranno di tutto per farti fuori, i tuoi veri nemici non stanno nel partito ma nelle procure. Così ha detto Velardi in questa intervista anche al Libero. Il Fatto Quotidiano invece si occupa delle spese pazze in Consiglio regionale abruzzese. Abruzzo, turismo sessuale della giunta terremotata. Leggiamo di cosa si tratta. Indagati il presidente PDL Gianni Chiodi, il presidente del Consiglio regionale e alcuni assessori. Viaggi a spese dei contribuenti con le amanti, rigorosamente o lussuosi hotel a 5 stelle. Si può spiegare tutto, scrive Antonio Massari. Il governatore abruzzese annuncia di essere in grado di giustificare ogni centesimo dei 37.500 euro pubblici spesi durante le sue 185 missioni istituzionali. Un episodio da spiegare, per esempio, riguarda la notte del 13 marzo 2010 e l'ospite della stanza 114 nell'albergo del Sole di Roma, zona Pantheon, pagata 340 euro con soldi contanti durante una visita istituzionale nella capitale. I carabinieri del nucleo investigativo di Pescara, spulciando tra i rimborsi di Chiodi, hanno verificato che quella notte nella stanza 114 il governatore non era solo, non era neanche con sua moglie a dirla tutta, poiché ha condiviso la camera con una dipendente dell'amministrazione regionale. Il punto, come ovvio, non riguarda la libertà del governatore Chiodi di condividere la sua stanza con una con chi che sia. Il punto è che questa libertà va pagata con soldi propri e non con denaro pubblico. Chiodi, infatti, dopo aver speso 340 euro, chiede un rimborso di 357, incassando indebitamente anche i 170 euro pagati per l'ospite. Cioè, riassumiamo, Chiodi va in albergo con un ospite e se lo fa pagare dalla regione. Non ci siamo. Tra i casi più singolari, scrive ancora il Fatto Quotidiano, c'è quello dell'assessore Nazario Pagano di Forza Italia, presidente del Consiglio regionale, assessore per la salute, che deve giustificare spese per 8.500 euro. La sua predilezione per i 5 Stelle extra lusso emerge sin dall'anno dell'insediamento, quando tra il 24 novembre e il 4 dicembre, sempre per motivi istituzionali, mi raccomando, viaggia tra la venezuelana Caracas e Miami in Florida, senza mai trovare un albergo che non sia appunto un 5 Stelle. Possibile che c'era un albergo un po' più economico per non far spendere 8.500 euro di alberghi in una missione di 10 giorni? È una cosa pazzesca. Così il Fatto Quotidiano. Oh, invece il Giorno fa una foto notizia a centropagina su un protagonista, un personaggio che è il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, che ha pagato lui l'IMU per tutti i suoi cittadini, 166.412 euro, la mini IMU, il saldo l'ha pagato lui, ha fatto l'F24 e ha pagato per tutti. Adesso, scrive il Giorno, il comune ribelle paga per i cittadini, nessun danno erariale, ma è da capire perché, dice il sindaco, la procedura che abbiamo adottato dovrebbe essere ineccepibile al fine di aggirare i rischi di essere accusato di danno erariale. Se così non fosse, lo facciano pure, spiega il sindaco, indicando che è stato studiato un sistema che dovrebbe garantire la regolarità del comportamento. Già, perché pagare l'IMU per i cittadini non è una manovra evidentemente semplice dal punto di vista erariale, e quindi può darsi che questo sindaco, che ha fatto un regalo ai suoi concittadini, trovi anche qualche grana sulla sua strada. In chiusura, due quotidiani con due notizie diciamo fuori dai titoli principali. La Padania, la posta in gioco. Il segretario della Lega dice: Salvini al ladro, altro che privatizzazione, rischiamo di perdere Poste e Banco Posta. Per incassare 6 miliardi si perderà per sempre un patrimonio degli italiani e si mettono a rischio risparmi e posti di lavoro. Cioè, la posizione della Lega contraria, critica sulla privatizzazione delle Poste. Il Manifesto invece titola: Sinistra chi? Ci sono le foto di Maurizio Landini, Nichi Vendola, Susanna Camusso e Alexis Tsipras, il leader greco che si candida a presidente della Commissione Europea. Al Pala Congressi di Riccione, dove c'è il congresso di Selle, vanno in scena le divisioni sui nodi della sinistra. Cioè, dice il Manifesto, a sinistra ognuno va per conto suo, mentre in Europa c'è questa possibilità per la sinistra di riunirsi sotto il cappello di Tsipras, un leader anomalo quantomeno per l'Europa, perché contesta fortemente l'impianto stesso delle politiche economiche di Bruxelles. 800 24 00 24, tra un attimo, dopo la pausa, aspettiamo i vostri interventi. Vi ricordo anche di chiamarci per raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana, anche cose personali, quello che volete, o cose che riguardano la vostra città, il vostro quartiere, il vostro condominio. Chi farà il racconto più bello vince i biglietti della mostra di Munch a Genova. Tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Un servo tempo fa di già una piazza pregava Cristo in croce e ci dicia: Cristo lume faccione ne sciabazza, mi tratta come un cane per la via, si piglia tutto con la sovanazza, manco la vita mia dici che è mia, distruggi la Gesù. Distruggila Gesù, fallo per mia. La malarazza di Roy Paci, ma la malarazza è quella per esempio di chi ogni volta che c'è un'alluvione e con delle vittime o con dei danni ambientali grossi si lamenta e poi però ha delle responsabilità. Almeno questo è il punto di vista di Domenico Finiguerra, consigliere comunale di Abbiategrasso, ex sindaco di Cassinetta di Lugagnano, in provincia di Milano, uno dei promotori del movimento Stop al consumo di territorio, che ha scritto tempo fa e adesso l'ha rilanciata una lettera di denuncia che se la prende proprio contro queste persone. Buongiorno Finiguerra. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto io vorrei dare un paio di notizie per quanto riguarda, per esempio, quello che è successo nella Bassa Modenese, dove si sta ancora lavorando per far diminuire gli sfollati e per riportare la situazione alla normalità, oppure per esempio andando in un'altra zona, in provincia di Lucca, l'appello del presidente della provincia di Lucca al governo: cambiamo atteggiamenti, altrimenti si va avanti con frane e alluvioni. E per cambiare atteggiamenti si intende proprio delle linee guida chiare contro la cementificazione, contro il consumo del territorio. Si continua ad interrare fiumi, a cementificare, a costruire nelle alvei dei fiumi e poi ci lamentiamo ogni volta quando ci sono le alluvioni, i danni e spesso anche delle vittime. Questa è la malarazza, Finiguerra? Eh sì, purtroppo questa è la situazione del nostro paese. Noi abbiamo ormai, direi, a cadenza quasi mensile una situazione di dissesto idrogeologico che interessa una delle nostre aree del paese, e purtroppo si piange appunto ai funerali, come io ho scritto in questa mia lettera di denuncia. E poi però, terminato il corteo funebre, si corre subito ad idolatrare la gru, ad approvare i piani regolatori nei consigli comunali che prevedono espansioni urbanistiche, a programmare grandi infrastrutture che sono anche esse causa di dissesto in alcune zone del paese. E quindi è proprio una situazione tutta italiana, ma basta ricordare una molto semplice: il nostro paese in 60 anni ha avuto danni per 61 miliardi di euro dal dissesto idrogeologico, quindi in media diciamo un miliardo all'anno. Sì. Sapete quanto avevamo in legge di stabilità prima dell'alluvione che ha colpito la Sardegna? Loretta aveva stanziato 30 milioni di euro per prevenire il dissesto idrogeologico. Poi ovviamente giorno dopo dell'alluvione Sì. Si è corsi a cercare nuove risorse. Cioè lei dice, se noi spendessimo questo miliardo di euro l'anno che abbiamo speso in questi anni per riparare i danni, invece che per, diciamo, dopo i danni ma prima, per mettere in sicurezza il territorio, la spesa sarebbe la stessa ma i risultati sarebbero ben diversi, no? Sarebbero ben diversi sotto due punti di vista: dal punto di vista della sicurezza dei cittadini, che si vedrebbero un territorio appunto curato, e poi si fa un gran parlare in questo periodo di ricerca di nuovi posti di lavoro. Noi dovremmo immaginare una grande, enorme opera per il paese, composta da tante piccole opere che nei comuni, nelle province, sulle montagne, sulle coste dei nostri mari o dei nostri fiumi, mettano in moto davvero una nuova edilizia. Potrebbe essere questo, Finiguerra, un vero piano nazionale di rilancio sia dell'occupazione in questi settori, però ampi: geologi, architetti, ingegneri, operai, l'edilizia sostenibile e il rilancio dell'occupazione, ma anche per dare un futuro al territorio italiano e per evitare di, insomma, per quanto possibile, di ripercorrere, di rivivere, no, le situazioni. Certo, assolutamente. Noi, tra l'altro, è una cosa che ha colpito molto anche noi ambientalisti. Abbiamo avuto negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 10 anni, anche di più, tipico avversario, magari politico, delle nostre battaglie ambientaliste, che erano i lavoratori dell'edilizia. Perché noi che ci opponiamo alle speculazioni e al consumo di territorio veniamo visti come coloro, certo, i quali tolgono il lavoro ai muratori. Invece... oggi è successa una cosa particolare. Sì? Nel mese di giugno del 2013, sì, lo Stop al consumo di territorio, la campagna Salviamo il paesaggio, ha sottoscritto insieme alla Fillea CGIL, cioè il più importante sindacato dei lavoratori nell'edilizia, un protocollo, un documento in cui si dice proprio: stop al consumo di territorio e recuperiamo i nostri centri storici, curiamo il dissesto idrogeologico, mettiamo in moto l'economia in maniera anche anticiclica in questo momento in cui il mercato ormai è saturo, la bolla immobiliare esploda, abbiamo milioni di appartamenti vuoti, invenduti in tutto il territorio nazionale, e quindi quei 400.000 posti di lavoro che abbiamo perso nel campo dell'edilizia dobbiamo provare a recuperarli facendo qualcosa che serve all'ambiente, al paese, alla sicurezza e al benessere dei cittadini. Ogni volta che appunto c'è un'alluvione o c'è un grave disastro dove ci sono anche delle vittime, è successo per esempio in Sardegna e anche in questo caso il governo ha messo a punto un disegno di legge contro il consumo di territorio, ci aveva provato anche il governo Monti, non ricordo a che punto, con il ministro Catania. Sì, con il ministro Catania dell'agricoltura, a che punto si fosse fermato quella iniziativa. A che punto siamo con un progetto di una legge che chiaramente possa mettere un punto fermo su questo? Siamo ad un buon punto dal punto di vista politico. Il forum Salviamo il Paesaggio è riuscito a far sì che in Parlamento venissero presentati ben 5 progetti di legge da tutti gli schieramenti, si va dal PD al PDL, progetti di legge che si pongono l'obiettivo di fermare il consumo di suolo. Quanto queste proposte poi vedranno un buon esito è tutto da vedere. Noi siamo molto attenti, siamo a fare un'operazione di vero e proprio controllo e verifica, sì, anche dell'ultimo disegno di legge che ha portato avanti il governo Letta. Perché io dico agli ascoltatori che ci sentono e che, come ricordava anche lei, si teme, no, per i posti di lavoro, si teme di fermare l'economia, invece non è così, cioè stop al consumo del suolo e riqualifica del territorio vuol dire un'opportunità di lavoro, cioè creare posti di lavoro attorno alla messa in sicurezza degli alvei dei fiumi, delle coste, demolire e ricostruire laddove ci sono costruzioni, per esempio, non a norma antisismica. Tutto questo è una prateria aperta, anche dal punto di vista economico, di fronte a noi, che va sfruttata. Però le voglio chiedere, oltre a questo tema di denuncia, lei ha rilanciato questa lettera rivolta anche agli amministratori locali, che spesso appunto li vediamo piangere metaforicamente, ma non solo, per i danni, ma poi hanno delle responsabilità. Lei, nel comune che ha amministrato, che tipo di politica contro il consumo di suolo è riuscito ad attuare? Cosa può fare un sindaco? Ma un sindaco può fare molto, un consiglio comunale, perché poi non è solo un sindaco che si può muovere, ma ci deve essere un'intera comunità che lo segue. Noi abbiamo adottato un piano regolatore che a Cassinetta di Lugagnano appunto puntasse tutto sul recupero dell'esistente, e questo paradossalmente ha significato che proprio a Cassinetta di Lugagnano ci fossero diversi cantieri. Mi spiego, l'edilizia negli ultimi anni comunque ha una grande sofferenza, ma soprattutto la grande edilizia. Abbiamo un problema che riguarda appunto il fatto che ci sono comuni che hanno previsto zone di espansione enormi e che hanno anche magari incassato oneri di urbanizzazione, questo accade ad Abbiategrasso per esempio, e che si vedono costretti a restituire gli oneri di urbanizzazione che pensavano di incassare per fare cassa e pareggiare il bilancio al privato che non ha più fatto andare avanti il proprio progetto immobiliare. A Cassinetta di Lugagnano noi invece abbiamo puntato tutto sul recupero del patrimonio esistente, delle ville del 700 piuttosto che dei condomini degli anni 70 o delle case di corte dei primi del 900, e questo ha messo in moto diverse operazioni immobiliari di cantieri piccoli che magari riescono a dare maggior possibilità di lavoro proprio alla manodopera locale, alle imprese locali del territorio, ai piccoli artigiani, mentre invece le grandi operazioni immobiliari di solito sono ben altri i tipi di imprese che intervengono. Ed era proprio questo il messaggio che volevamo dare: riqualificare il territorio può voler dire anche occasioni di lavoro e opportunità di sviluppo, ma in un'ottica di salvaguardia, per cercare di evitare che risucceda quello che è successo in Sardegna o che succede in Liguria o a Lucca o anche in Emilia Romagna. Grazie allora e buon lavoro a voi del movimento Stop al Consumo di Territorio. Abbiamo sentito Domenico Finiguerra, adesso consigliere comunale di Abbiategrasso. Buon lavoro. Grazie. E grazie anche per averci dato un po' di luce, perché l'esperienza di Cassinetta, di Lugagnano, ma ci sono molti altri comuni dove si è cercato di fare questo, insegnano che si può fare. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I know you want it. Good girl. buongiorno anche a Carlo Gabardini. Ciao, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Abbiamo parlato insomma dell'emergenza alluvioni con questo ex sindaco di un paese in provincia di Milano. Ho sentito fare una politica assennata di consumo del territorio, però oggi a Milano c'è il sole, è una bellissima giornata, quindi anche questa è una buona notizia, cioè, direi. Esatto, al momento la situazione volge al bello. Sì. E poi noi aspettiamo gli ascoltatori, 800 24 00 24, aspettiamo il vostro racconto di che cosa ha reso bella la settimana, come sempre, e anche oggi si vincono i biglietti della mostra di Munich. Molto però, bello. Carlo, invece tu cosa ci porti? Cosa mattina? Porto? Allora, devo dire che è stata una settimana nella quale sono stato tra una cosa e l'altra molto su Repubblica, perché Repubblica ha ripubblicato il mio video La Nutella e la Marmellata, prima in realtà sulle pagine milanesi e poi anche in home page. Stai di Repubblica. Un successone, eh? Sì, in realtà non me l'aspettavo, esatto, nel senso che il video è tipo a 220.000 visualizzazioni, comprese quelle di YouTube, e quindi ringrazio tutti moltissimo, anche perché penso che il valore di quel video c'è nel momento che viene visto molto, perché dà, diciamo, la possibilità a un ragazzino, riferendosi al video, di poter dire ai propri amici: a me piace la Nutella, intendendo il video. Gli altri ragazzi gli diranno molto probabilmente: anche a noi piace la Nutella. E lui dice: no, a me veramente piace la Nutella. E in questo modo il ragazzino ha fatto coming out senza dover dire ai propri amici sono gay, piuttosto che usare parole omosessuale, altre questa parole cosa, che a volte per... che era nata dopo il fatto di Roma, il suicidio, esatto, di Simone, dopo la lettera che comprende, che ha fatto Le cose cambiano. Esattamente, tra l'altro, come sempre diciamo qui, è un video che nasce in questa radio, in questo studio con te, Alessio, perché chiamarono qui e mi chiesero un video, e questo è il video che poi è andato su Repubblica. Ma comunque non mi dilungo su, come sempre, diciamo, sulla mia biografia. Quindi, tra le notizie sempre su Repubblica TV, ho trovato una notizia che annuncia che l'associazione Turtlen indice un concorso per capire quali sono i tortellini più buoni sulla via Emilia. Aha. E diciamo che indice delle vere e proprie primarie del gusto. Non so se le chiama primarie anche per dare la possibilità a Cuperlo di rientrare da qualche parte, questo onestamente non lo so, anche perché non so come cucini i tortellini Cuperlo. Comunque si è svolto il primo turno, e pare che il primo turno si è svolto a Bologna, anche se ha vinto un modenese che però è adottato bolognese, perché insomma loro ci tenevano che vincesse uno di Bologna. Ci piace anche il tortellino anche modenese. Assolutamente, dai. Dopodiché ci spostiamo invece, rimanendo sempre nell'ambito, diciamo, della distribuzione alimentare. Il resto va di moda, perché adesso c'è Masterchef, non solo trasmissioni che parlano di cucina, concorso, in televisione. Infatti, quindi, secondo me, Cuperlo, se non va lì, può anche andare a Masterchef, insomma, visto che è disoccupato, direi, in questo momento, essendosi dimesso. Invece la storia di Mestre, che sicuramente è una storia che tu, Alessio, conosci bene, dove c'è il bar Il Palco, che è in pieno centro a Mestre, e il suo proprietario Stefano Ceolin, che è un grande avversario delle slot machine, delle macchinette mangia soldi, perché le reputa pericolose, perché rovinano la gente. Quindi Stefano Ceolin, evidentemente non volendo le macchinette e mangia soldi, a un certo punto ha detto: che cosa posso mettere in tutto questo spazio? Che c'ho un bel calcio balilla, e decide di mettere un calcio balilla. Siccome lui è anche un grande appassionato del calcio balilla, dice: io lo voglio anche mettere gratuito, non voglio che la gente paghi. Bravo. Quindi va a chiedere in comune se serve un'autorizzazione, gli dicono di no, perché non genera profitti questa attività. Invece due settimane dopo entrano i vigili nel suo bar e gli danno 1200 euro di multa perché non ha l'autorizzazione. E qui inizia una trattativa fra lui che fa ricorso, il ricorso non viene accettato, quindi la multa diventa del 20% in più, diventa di 1400 euro. Insomma, diciamo che in un momento in cui si parla di evasioni che toccano i 50 miliardi di euro, diciamo che fanno specie queste notizie in cui la Guardia di Finanza va a colpire in realtà un bar che sta svolgendo un'operazione meritoria, positiva, un calcio balilla gratuito. Esattamente. Ce ne fossero. Esattamente. Accidenti, si è beccato la multa. E rimanendo sempre nel mondo multe, diciamo, questa notizia qui si era già sentita, anche quella del calcio balilla. Ad Asti succede forse di peggio: in una piadineria, da Gina la Piadina, succede che il proprietario decide di mettere a disposizione dei propri avventori 4 tablet a titolo gratuito per poter chattare, per poter fare, ingannare il tempo nel momento che aspetti che la piadina ti venga. Una bella iniziativa. Arriva la Guardia di Finanza e dà una multa di più di 5.000 euro, cioè di 1.333 euro per ogni tablet, perché secondo loro questa cosa, secondo l'articolo 110 del testo unico, viene equiparata agli agli apparecchi da gioco, quindi di nuovo le odiatissime slot. Quindi da un lato diciamo c'è lo Stato che spesso a volte chiude un occhio oppure non controlla, lascia un sacco di evasione nei confronti delle slot machine, e poi invece si accanisce su tutto il calcio barilla e esattamente i regalati agli avventori del bar. È divertente, direi che spiega molto bene quello che viene scritto nel rapporto della Guardia di Finanza quando descrivono questi tablet, che dice: apparecchi della tipologia tablet dotati di monitor touchscreen collegati tramite wifi alla rete internet, dai quali è possibile consultare la propria posta elettronica, accedere a piattaforme di chat come Facebook o Twitter, leggere il quotidiano La Stampa e giocare ai diversi giochi installati cliccando semplicemente sull'icona che compare a video. Quindi come se questa cosa qua, una specie di mostro, è il tablet, ed è praticamente lo smartphone che abbiamo tutti in mano, semplicemente un po' più grande. Quindi diciamo che di nuovo spiega bene come siamo messi male. Vabbè, ma i cittadini italiani lo sanno che spesso insomma la Guardia di Finanza e lo Stato non regalano sempre belle sorprese. No, infatti, direi che un eufemismo, potrei aprire una nuova rubrica che si chiama multe anomale, diciamo, per non dirla con possiamo parole farla, peggiori. 800 24 00 24, se gli ascoltatori vogliono possono farlo loro. E arrivo invece a una notizia dall'Emilia Romagna, dove l'assessore al turismo Maurizio Melucci ha proposto, partecipando a un talk show, ha proposto che la piadina venga candidata come patrimonio dell'umanità. Mi sembra quindi giusto, perché la piadina non è un mero cibo, è una vera e propria categoria dello spirito. Poi, fra le motivazioni, sto tranquillamente, vale adoro per tante altre cose, allora. Esatto, fa strano che fra le sue motivazioni dice anche: non è un caso, infatti, che i cinesi, esperti nel copiare qualsiasi cosa, tentino di clonarla senza riuscirci ormai da molto tempo. Onestamente non mi sembra una gran motivazione, perché i cinesi cercano, diciamo, di clonare anche le assi del cesso, e non credo che le assi del cesso siano patrimonio dell'umanità, anche ma se qui siamo in un forse altro dovrebbero. Il bidet, secondo me gli italiani siamo direbbero. Siamo in un altro capitolo, boiate degli assessori e degli amministratori locali. Va esatto. Bene, ma ti dico, no, ti dico perché mi interessa questa notizia, perché in realtà al di là della questione di candidare la piadina o meno, la cosa che mi piace è che l'assessore al turismo Maurizio Melucci in qualche modo si è messo in difficoltà, cioè dichiarando questa cosa, dicendo io voglio candidare la piadina, mo gli tocca farlo questa cosa, perché ci saranno gli altri cittadini, ci saranno tutti quelli che hanno una piadineria che gli dicono: oh, ma sei riuscito a far vincere, a far diventare la piadina patrimonio dell'umanità, come va avanti quella storia, mi chiederanno come conto di questo, esattamente, dici. E quindi vogliamo esattamente, vorrei aprire questo nuovo, questo sì, una nuova rubrica, un nuovo capitolo, vediamo, un esperimento anche, sì, dove vorrei chiedere a tutti i nostri ascoltatori in qualche modo di mettersi in difficoltà, ovvero di chiamarci dicendo un proprio buon proposito, se possiamo chiamarlo così, visto che siamo ancora a gennaio. Qual è la loro sfida per quest'anno? Una sfida, impegno, un progetto, perché nel momento che uno si dichiara, nel momento che uno dice, se vogliamo, da un certo punto di vista è anche una sorta di coming out, sempre per rimanere in tema, a quel punto poi ci sono le persone intorno che gli renderanno conto, cioè gli chiederanno. È un po' come quell'ascoltatore che aveva chiamato dicendo che stava scrivendo un libro e che la prima cosa bella dell'anno è che aveva cominciato a scrivere questo libro. Esattamente. E allora si era impegnato di fronte a tutti gli ascoltatori. Esattamente. E poi gli diranno: scusa, ma allora lo stai scrivendo? Esatto, e l'impegno è ancora più preciso. Adesso dobbiamo ancora trovare un nome a questa rubrica. L'impegno è ancora più preciso, perché che cosa succederà? Voi ci telefonate, ci dite il vostro proposito, che può essere scrivere un libro, scrivere un romanzo, un articolo, diventare giornalista, smettere di fumare, dimagrire, quello che volete. E noi vi chiederemo, cioè vi piano richiameremo. Piano vi a cercare, nel senso per sapere che, come esatto, sta andando. Se vuoi smettere entro aprile di fumare, noi verso marzo, bella, verso maggio diremo: allora hai fumato, non stai fumando, e ti richiameremo. La rilanciamo anche dopo. 800 24 00 24. Torniamo dopo il giornale radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24. Cominciamo a raccogliere i vostri interventi, cominciando da Lorenzo che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Posso già dire? Tocca a lei. Certo. Grazie. Mi piacerebbe che quando si parla dei problemi si partisse con un cappello, una volta si dice, no? Cioè, facendo la situazione. La situazione è che tutte le acque del territorio nazionale sono letteralmente abbandonate. Tronchi, rami, rifiuti, lungo i fiumi, torrenti, manutenzione zero, piante direi marce ormai, non solo malate. Quindi lei ci conferma, Lorenzo, comunali, la necessità di intervenire su questo. Lei ci conferma, perché noi abbiamo fatto l'intervista con il sindaco, ex sindaco Finiguerra, che rilanciava questa proposta di un piano di intervento nazionale. Lei mi sembra che sia d'accordo, partendo da questa cosa dei fiumi. Voleva l'intervento qualcos'altro. Nazionale dipende chi lo fa e come lo fa. Va bene. Perché se noi seguiamo le direttive degli ultimi vent'anni, per favore non buttiamo via soldi. Va bene. Guardi, lei non ha sentito bene forse l'intervista di prima, perché noi auspicavamo proprio il contrario, cioè di cambiare rotta rispetto a quello che si è visto fino agli ultimi vent'anni. E questo è il senso dell'appello denuncia che abbiamo, a cui abbiamo dato spazio. Barbara dalla provincia di Modena, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Salve, buongiorno. Io sono di Finale Emilia, comune terremotato del 2012. E sono, mi trovo in questo momento. Oddio, è andata giù la linea, Barbara. Barbara. Beh, tra l'altro proprio nel momento in cui stava dicendo in una zona terremotata, adesso siamo preoccupatissimi. È alluvionata, richiamaci. È andata giù la linea, va bene. Sentiamo invece Paolo da Piacenza, allora, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io sono stato fino a un anno e mezzo fa presidente ANCE provinciale di Piacenza, poi sono... L'ANCE sono i costruttori? Sì, di Confindustria. Perfetto. Poi sono entrato in consiglio comunale per vedere se era tutto brutto come si pensava, e purtroppo ho trovato la situazione che mi aspettavo, però una nota positiva è che ieri abbiamo presentato il progetto condomini intelligenti, patrocinato dal comune, e per la prima volta siamo riusciti a metterci in rete come imprese della provinciale all'interno della provincia di Piacenza per riqualificare i condomini a livello energetico, quindi risparmio energetico, contenimento delle emissioni di CO2 e riqualificazione urbana tutti in una volta. E abbiamo dei business plan che dicono che è a costo zero per i condomini. Quindi è una buona notizia, direi. Un'ottima notizia. Direi proprio di sì. In cosa consiste questa intesa, Paolo? Allora, questa intesa è chiaramente l'abbiamo presa insieme ai proprietari casa, col patrocinio del comune, noi interveniamo con dei progetti di fattibilità sui condomini e tramite il cambio dei serramenti, degli impianti, l'involucro esterno, riusciamo a portare gli edifici dalla classe F o G addirittura. Certo. Non ho capito una cosa, se c'è anche un investimento da parte della provincia, un aiuto economico. No, il comune ha detto che l'avrebbe fatto molto volentieri, tra l'altro appunto io sono in consiglio comunale, quindi so effettivamente che il budget è estremamente risicato dell'assessorato per l'ambiente e anche non è stato riuscito a neanche un contributo simbolico. Va bene, comunque quindi, diciamo il senso di questa iniziativa è quantomeno un quadro di norme, un'intesa per come dire, favorire il recupero, l'efficienza energetica per i condomini intelligenti. Questa era la buona notizia di Paolo da Piacenza. Benissimo, cominciamo. Aggiungo l'ultima cosa, anche una banca locale ha partecipato con la possibilità di finanziare gli interventi, quindi va bene, ecco, questo per una volta anche le banche l'elemento, si sono comportate l'elemento bene. Economico ci serve sempre. 800 24 00 24, questo si candida, direi, per vincere, per dare assolutamente per vincere i biglietti come buona notizia. Potrebbe essere già anche un primo progetto di impegno per il futuro, cioè vediamo se questi condomini intelligenti poi diventano realtà, no? La cosa che abbiamo lanciato giusto prima. Giusto, potrebbe essere. Anche se diciamo che è un pochino più per diciamo per progetti personali piuttosto che per un progetto del comune, però va benissimo, perché no, va benissimo. Intanto salutiamo il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, buongiorno, grazie per essere con noi. Ecco, abbiamo cominciato così, è caduta la linea, non lo salutiamo più. Va bene, allora facciamo il traffico che era previsto. Non gli è piaciuta la buona notizia forse. E tra poco torniamo, tra l'altro era Piacenza, è la provincia che confina con la Lombardia, quindi è quasi una cosa sua. Torniamo dopo il traffico. Si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora riproviamoci. Buongiorno Roberto Maroni. Eccomi qua, buongiorno. Eccolo, buongiorno. Stavolta ci sente. Senta, la notizia, la bella notizia di cui ci occupiamo, da cui vogliamo partire, è questa. La multinazionale degli elettrodomestici Whirlpool qualche giorno fa ha annunciato la chiusura di uno stabilimento in Svezia. Questo di per sé non è una buona notizia, ma venendo alle cose di casa nostra, visto che parliamo sempre di imprese che fuggono, ha annunciato l'intenzione di trasferire in qualche modo l'hub, la base della produzione di forni a microonde incassati, nello stabilimento in provincia di Varese, a Cassinetta di Biandronno, dove ci sono credo 1200-1300 lavoratori, tra l'altro in questo momento in solidarietà, cioè quindi ossigeno, fiato per uno stabilimento importante italiano. E ne vogliamo parlare con lei, che qualche mese fa aveva firmato proprio un protocollo con la Whirlpool. Intanto, Maroni, che notizia ha, diciamo, di contorno rispetto a questo annuncio della Whirlpool? Beh, che è una novità importante in controtendenza. Riusciamo ad attrarre investimenti esteri, riusciamo ad attrarre investimenti di imprese multinazionali, e questa è una notizia veramente straordinaria, perché finora è successo il contrario, cioè assistiamo a multinazionali e imprese che delocalizzano, ma non solo a multinazionali. La Lombardia vive questo processo di delocalizzazione anche nei confronti, per esempio, del Canton Ticino, imprese di Como, di Varese, di Milano, che se ne vanno di là perché c'è meno burocrazia, meno tasse e costo del lavoro più basso. E questa notizia invece segna una inversione di tendenza che mi auguro possa essere estesa anche ad altri casi, per esempio quello di stretta attualità Electrolux. Sì. È un caso simile a quello di Whirlpool, e credo che il governo italiano farebbe bene a studiare il caso Whirlpool per applicarlo anche a Electrolux, magari riuscirebbe ad ottenere lo stesso risultato. Su questa cosa dell'Electrolux, la Serracchiani, presidente del Friuli, la sua collega del Friuli, ha chiesto le dimissioni sostanzialmente, l'ha detto chiaramente, del ministro dello sviluppo Zanonato, perché non è riuscito a affrontare questa questione. Lei mi sembra che sia d'accordo quasi, insomma, su questo. Direi anche noi come Lombardia siamo interessati, perché anche in Lombardia c'è un impianto produttivo di Electrolux. Quando si verificano queste situazioni bisogna prevenire e bisogna mandare segnali chiari e univoci nella direzione giusta. Noi l'abbiamo fatto, io non pretendo di dire che il protocollo fatto con Whirlpool ha determinato la multinazionale a prendere questa decisione favorevole, però è servito, perché abbiamo capito che Whirlpool voleva trovare un luogo favorevole agli investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, e guarda caso nel protocollo gli obiettivi condivisi tra la regione e Whirlpool sono proprio questi: promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto. Abbiamo detto in sostanza: cara Whirlpool, se vuoi investire in Lombardia, noi siamo pronti a dare un sostegno anche finanziario in questa direzione. E loro ci hanno creduto e quindi hanno deciso di farlo. Con Electrolux bisognava fare la stessa cosa e bisognerà fare la stessa cosa. Purtroppo il governo è arrivato tardi. Io non so se adesso riuscirà a risolvere la questione, però bisognava muoversi prima. In questo ha ragione la Serracchiani. Senta, però un impegno, diceva, della regione anche a sostenere in termini finanziari questo protocollo d'intesa. C'è una cifra che avete messo a budget su questo? No, non c'è ancora, perché quando l'abbiamo fatto non sapevamo quali e quanti investimenti Electrolux volesse fare, no? Adesso vedremo il piano industriale della società nelle prossime settimane, siamo già in contatto e siamo disponibili ovviamente a intervenire, ma il segnale era quello lì, la disponibilità a. Dopodiché, concretamente, quando ci sarà bisogno, io ho nell'obiettivo di legislatura di raddoppiare gli investimenti della regione proprio in innovazione e ricerca. Attualmente è l'1,6% del PIL lombardo, io voglio arrivare al 3%, che è il livello più alto dei paesi europei. Perché penso che l'attrattività di investimenti, la vocazione della Lombardia per attrarre investimenti sia proprio questa. Ecco, però mi scusi, perché innovazione e ricerca, questo è il punto, diciamo, poi chiave, mi sembra, no? Anche di questo protocollo, e forse anche dell'interesse per Whirlpool di restare in provincia di Varese. Però parlando con i sindacati, loro dicono sì, intanto però i lavoratori sono ancora in solidarietà, cioè una forma, diciamo, di lavoro ridotto e di stipendio anche ridotto. Diciamo, di annunci concreti non ce ne sono. Io la domanda che l'ho fatta all'inizio è questa, cioè lei ha qualche elemento, diciamo, di speranza concreta in più che si metta in moto qualcosa presto a Cassinetta di Biandron, no? Ma sì, ma i sindacati vogliono tutto e subito, non funziona così. La società Whirlpool ha deciso di chiudere le attività produttive in Svezia e di trasferirle qua, non è che si fa dall'oggi al domani. Questa è la prospettiva. Adesso dobbiamo lavorare perché la prospettiva comporti, oltre che investimenti, anche aumento dell'occupazione, reimpiego di quelli che sono in cassa integrazione e riqualificazione del personale. E nel protocollo si parla anche di questo, favorire e promuovere la formazione e riqualificazione interna all'azienda. Nel protocollo c'è tutto. Adesso, non appena il piano industriale sarà fatto, faremo un incontro con l'azienda e con i sindacati per vedere le azioni concrete. Anche da questo punto di vista la Lombardia è all'avanguardia dal punto di vista del sostegno all'occupazione, e quindi non ho dubbi che sarà una best practice di successo che sì, io penso potremmo estendere ad altri casi di crisi aziendali. Però in Lombardia è vero che, fuori dalla Lombardia, che questo protocollo, insomma, questo impianto anche normativo per quanto riguarda, diciamo, l'impegno della regione deve avere ancora un'approvazione in consiglio regionale. No, assolutamente, è un protocollo che io ho firmato io, sì, direttamente con la società, quindi non c'è bisogno di nessun passaggio in consiglio regionale. È già operativo? È operativo, assolutamente. Beh, sì. Però qualora ci fosse da stanziare una cifra, forse ci sarà anche un voto in consiglio regionale, o no? No, sono cose che fa la giunta, non direttamente è che dobbiamo passare la giunta in consiglio. Sì, abbiamo un bilancio capiente, abbiamo dei fondi per questo. Abbiamo dei fondi per sostegno alle imprese, per il sostegno al credito, abbiamo stanziato oltre 1 miliardo nel 2013 per sostenere le imprese nella difficoltà economica, sostegno al credito e pagamento dei crediti che i comuni hanno nei confronti delle imprese, quindi le risorse le abbiamo, non le buttiamo via, non le promettiamo così a casaccio, ma solo a fronte di un piano industriale che ci convinca, e qui mi pare che le condizioni ci siano, però prima vediamo gli impegni e il piano industriale e poi interverremo. Senta, un altro tema che ci sta a cuore, quindi insomma il contorno è questo, una buona notizia come è stata data dalla stampa che deve ancora concretarsi, ma dice giustamente Maroni, non è che si può avere tutto subito, aspettiamo un attimo e vediamo quando la Whirlpool calerà le sue carte. Un altro tema che ci sta a cuore è quello delle slot machine, non perché dai microfoni di questo programma o della radio facciamo una crociata contro il gioco, ma perché ci sono i bar che rinunciano, ci sarà un motivo, c'è il fenomeno della ludopatia, c'è un'esagerazione, una proliferazione eccessiva sicuramente di questo mondo dei videopoker. So che avete approvato proprio in queste ore un elemento, diciamo, concreto della legge per limitare le slot machine, il limite di 500 metri rispetto ai luoghi sensibili, è così? Esatto, la Lombardia tra tanti primati positivi ce n'è anche uno negativo, la provincia di Pavia è la provincia in Italia che ha la più alta percentuale di spesa per le slot machine, arriva fino al 7% del PIL, e questo comporta anche problemi seri di carattere sociale. Noi abbiamo assieme ad altre due regioni, siamo solo in tre, approvato 2 mesi fa una legge che regolamenta, dal nostro punto di vista, perché noi non abbiamo i poteri per regolamentare il settore, ma l'abbiamo fatta proprio per consentire ai sindaci di evitare la proliferazione di questi esercizi che sono fuori controllo, perché qualunque bar può mettere una macchinetta, e ieri abbiamo approvato il primo regolamento di attuazione, sì, che stabilisce una distanza minima da certi luoghi sensibili, le scuole, altri istituti, di 500 metri. Che è tanto. Una misura concreta che ho subito inviato a tutti i questori della regione, sì, delle 12 questure, perché ne tengano conto nella nella concessione delle autorizzazioni. È una... Quindi però vale per il futuro, Maroni, cioè le, chi ha già una slot machine, anche se è più vicina di questa distanza, rimane questo. Eh beh, certo, non è retroattiva la norma, però vale per il futuro, per le nuove, vale anche per i rinnovi delle concessioni. Ora i sindaci hanno uno strumento concreto, stiamo facendo un monitoraggio assieme alle associazioni no slot per vedere quali sindaci lo fanno, quali non lo fanno. Non è un obbligo naturalmente, ma è una, in, uno strumento nelle mani dei sindaci, e credo che sia una battaglia sacrosanta. Senta, un altro capitolo, questo però nazionale, è quello di Stamina, perché so che proprio in queste ore lei ha annunciato un'ispezione, anche se la regione, lei ha detto, non è mai stata coinvolta in atti formali nella sperimentazione a Brescia, però lei dice: vogliamo capire perché questo è stato possibile fuori dai protocolli, come poi è venuto fuori dopo ed è stato ampiamente dimostrato. C'è qualcuno che ha sbagliato secondo lei? Vedo che siete molto bene informati, ci controllate, giusto, insomma, che sia così. Facciamo il nostro lavoro, Maroni. È giusto, è esattamente così. Stamina è una vicenda nota. La convenzione è stata fatta tra l'ospedale di Brescia e la fondazione Onlus Stamina, senza passare dalla regione, prima che io arrivassi a fare il governatore. Però le vicende, quindi noi non abbiamo titolo a intervenire, se non come controllo, e proprio questo voglio fare, perché non mi piace l'idea che proprio nel settore della ricerca, in questo caso scientifica e non tecnologica, che è un settore in cui io voglio investire, si possa pensare in Italia e nel mondo che in Lombardia si fanno le cose con leggerezza, peraltro mettendo di mezzo le persone. È un tema che io voglio presidiare, questo della ricerca, e abbiamo deciso ieri di fare i nostri approfondimenti dal nostro punto di vista. Se ci saranno irregolarità interverremo. Giovedì prossimo incontrerò il Ministro della Salute, che viene in visita in Lombardia, e per allora avrò gli esiti di questa indagine che abbiamo deciso ieri. Lei che idea si è fatto, però? Se ha spinto per fare questa ispezione è perché sospetta forse che c'è stata qualche irregolarità? Esattamente. Quindi dobbiamo aspettare fino a giovedì, se ho capito bene, per avere una risposta. No, io giovedì incontro il ministro, che viene appunto giovedì, ma l'indagine è partita già, parte già oggi, e quindi penso entro martedì al più tardi. Anche prima. Noi avremo l'esito, certo. Noi siamo efficienti. Vabbè, un'altra cosa gliela voglio chiedere prima di lasciarla, Maroni, che riguarda, questa è una piccola polemica, non so, no, forse non è una piccola polemica, perché c'è sempre Varese, lei, il suo collegio elettorale è di Varese, abbiamo parlato, no, la non è, scusi, il mio, no, collegio elettorale non è Varese, è Lombardia, no, infatti, io abito a Varese, è di Varese, Cassinetta abbiamo detto Varese, va bene, il protocollo, poi c'è il teatro di Varese, per cui il Consiglio regionale ha stanziato 15 milioni di euro, detto che ogni investimento in cultura e diciamo in finanziamenti a delle opere va benissimo, è positivo, tutto a Varese fate? Assolutamente no, guardi, questo è avvenuto ieri, ma in questo anno abbiamo dato contributi a tantissime realtà, gliene cito solo due perché sono governate dalla sinistra, Como, le paratie, un problema annoso che nessuno era riuscito a risolvere, il sindaco del PD e io sono intervenuto e ho dato risorse e gli ho risolto un problema grave. E poi Mantova, la provincia di Mantova, guida PD, è crollato un ponte sul Po, abbiamo dato 30 milioni di euro per ricostruire il ponte, lasciando al presidente della provincia di Mantova la responsabilità, perché lui me l'ha chiesto, di realizzare l'opera. Quindi noi abbiamo semplicemente dato il contributo, ma i meriti se li prenderà tutti noi. Senta, il nostro stagista opinionista Carlo Gabardini le voleva fare una domanda. Eccolo qua. Buongiorno Presidente. Mi scusi. Buongiorno. Ha visto l'intervista di Matteo Salvini ieri alle Invasioni Barbariche? Non l'ho vista, ma l'ho seguita su Twitter. Sì. Perché ha detto delle cose interessantissime, tipo che pur di raggiungere il federalismo la Lega ha dovuto turarsi il naso e votare leggi del PDL che lui personalmente, Salvini, e secondo lui anche un po' tutta la Lega, avrebbe volentieri fatto a meno, e ha fatto per esempio l'esempio delle leggi sulla giustizia, che dice? Sì. Beh, ma è una cosa nota, quando si è in coalizione non sempre tutto quello che passa ti soddisfa, bisogna trovare il compromesso, l'unico modo per evitarlo è quello di avere la maggioranza assoluta e di governare tu da solo, ma siccome non è stato possibile finora, però accanto a questo ci sono state tantissime norme che abbiamo provato che erano le nostre norme, per esempio tutte quelle sulla lotta alla mafia che io ho fatto da ministro dell'interno sono cose nostre, sono cose sicurezza nelle città, sicurezza contro il malaffare, intervento contro il malaffare. Abbiamo fatto il federalismo fiscale che è stato realizzato solo grazie alla Lega, quindi sì, in realtà ombre, ma io credo più certo. Luce che ombre. Salvini in realtà diceva che poi il federalismo non si è tanto raggiunto, quindi diciamo si rammaricava, a parte che ha anche detto di essere comunista, cioè che è stato comunista Salvini da giovane. Vabbè, anch'io lo sono. Infatti, no, volevo sapere se vi eravate conosciuti questa liaison. Però siamo entrambi milanisti, certo. Quindi abbiamo tante cose in comune. E anche detto che il suo Twitter, lei è lei che scrive dal suo Twitter? Sì, assolutamente sì. Ah, perché anche Salvini ha detto che sta troppo su Twitter e che sua moglie si prende sempre malissimo, che lo obbliga a spegnerlo, ma che lui non spegne. Ma chi, Maroni sta troppo su Twitter? No, Salvini. Allora mi chiedevo se anche il presidente Maroni fosse lui a scrivere. Aspetta, però Maroni conferma cosa? Che Salvini sta troppo su Twitter? Esatto, e confermo che io scrivo sul mio profilo Twitter. Va bene, grazie presidente. Grazie mille. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. 800 24 00 24. Facciamo qualche ascoltatore prima della pausa, lo vogliamo fare? Sì. Riccardo d'Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire sul problema dei fiumi in generale in Italia. Sì. Prego. Sente? Sì, cosa voleva dire? Volevo dire semplicemente una cosa abbastanza banale, però importante. Allora, da sempre adesso capita più frequentemente che piove un periodo abbastanza breve e ci sono inondazioni un po' dappertutto. Ma voglio dire, una volta, quando i fiumi venivano tenuti puliti e dragati, perché è noto che sì, il fiume quando scorre porta sabbia, ghiaia, praticamente il letto si alza. Sì. Il letto intanto va ripristinato alle condizioni originarie. Va bene, però non ci faccia un trattato di fiumologia, volevi dire? Idrografia, cosa voleva dirci Riccardo? No, io volevo dire che gran parte di queste inondazioni sono dovute al fatto che i fiumi non sono puliti. Guardi, va io in Piemonte, ha ragione, le posso dire questo. Sì. Le posso dire questo. Veloce, in Piemonte, allora, anni fa è scaduto una legge dove lo Stato autorizzava i privati a prendere la ghiaia, a prelevare la ghiaia dei fiumi. Poi non l'hanno più riattivato questo decreto, non so se per colpa di gruppi politici vari che non sto a citare, che sono dei va bene, ho capito Riccardo. In effetti, quello che abbiamo detto in apertura è questo, cioè che bisogna proprio invertire mentalità da tanti punti di vista, 360 gradi come si usa dire in questi casi. Facciamo anche Antonio, sempre dal Piemonte, da Asti, buongiorno Antonio. Non ci sente. Buongiorno. Eccolo. No, ci sono. Buongiorno. Sta bevendo il caffè. Buongiorno Alessio, buongiorno. Senta, volevo dire una cosa per il vostro tramite. Visto che c'è stato uno studio di Save the Children che dice che i giovani fanno sempre meno sport, perché non proporre una detrazione fiscale molto forte per riavvicinare i giovani allo sport? Visto che c'è questo problema. Ah, questa è la sua proposta. Ma dove? Una detrazione fiscale su? Sul 730. Sulle palestre, sulle piscine. Ah, questo volevo capire. Sport. Cioè di mettere lo sport come un obiettivo, diciamo, da raggiungere e quindi fiscalmente detraibile le spese dello sport. Una detrazione molto bassa, praticamente solo fino a 200 euro il 19%. È interessante. Abbiamo Peter Bescapè, regia, che fa sport e che ha annuito, ha detto sì, lui sarebbe favore. Cioè è l'uno che fa sport qua in tutto lo studio in realtà. No, ne hai scovato uno che fa sport, eh? Ce l'abbiamo uno su quattro. Io mi chiamo da Asti, no? Su Asti c'è ormai una disolazione incredibile. E, peraltro sposo, vabbè, lascia stare adesso. E niente, anche soprattutto le palestre, anche le palestre, tutto, secondo me bisognerebbe mirare qualche cosa, perché sennò se non facciamo qualche cosa qui veramente. Va bene, accogliamo il suo appello, Antonio, che non è tanto grazie a una buona notizia o una cosa che ha reso bella la sua settimana. Ma non sapevo che i giovani facessero così poco sport. Cioè c'è un calo dello sport. Perché non leggi. Save the Children ha fatto un rapporto l'altra settimana in cui ha detto che siamo a rischio obesità, non fanno sport i bambini italiani. Ah. Così è. 800 24 00 24. Per ora di racconti su cosa ha reso bella la vostra settimana ne abbiamo solo uno, Paola da Piacenza, che come consigliere comunale della provincia, no, comunale della città di Piacenza, ci ha parlato dell'iniziativa Condominio Intelligente. Torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Con la tua meccanica semplice e perfetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Con la bandierina, lo specchietto e la trombetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Se ne va a fare la spesa col triciclo la vecchietta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Con il campanello, col cestino e la pompetta, vola, vola, vola sulla bicicletta. Vola sopra il traffico, vola sullo smog, risparmio la benzina, mi diverto e faccio sport. Questa è la mia droga, non ne posso fare a meno. Se il tragitto è lungo, me la carico sul treno. Immagini chilometri. Allora, intanto abbiamo qualche messaggio. Per esempio, c'è chi su Twitter dice che ci sta ascoltando in diretta dalle Hawaii. Beh, un bel complimento, Paolo bello. Mato, sì, dice non ha prezzo. Beh, beato lui. Poi non ha prezzo o non ha prezzo? Non ha prezzo. Ah, volante. Ok. E invece poi c'è un messaggio SMS che dice: le inondazioni saranno colpa di 7 miliardi di persone che vanno a fare pipì tutti insieme? Questo ce l'ha con Povia. Esatto, ricordo un po' Povia che sul suo Facebook scrisse in risposta a chi gli chiedeva come mai i terremoti, dice: non ho le risposte per questa cosa, però la Terra è in continuo movimento naturale, sì. Ci sono scosse di assestamento eccetera, ma la Terra è anche popolata da 7 miliardi di persone che si muovono e questa potrebbe essere un'altra causa. Povia, Povia. Povia e le teorie sul terremoto e il gomblotto. Oh, ecco, senti, vedi, a fare la spesa a lavorare in bicicletta. C'è una notizia di questa settimana che riguarda il mondo della bici, che noi seguiamo sempre con grande interesse, perché andare in bici fa bene, si evita per esempio di andare in palestra, probabilmente anche di umore uno sta meglio quando va in bici, perché dipende quanti chilometri devi fare, diciamo, certo. 20 km sotto la pioggia, come stai quando arrivi? Un po' nervosetto, però fa bene, sì, e fa soprattutto bene. Non inquina, non ingombra le città. La proposta di legge che è stata depositata è quella che regola l'infortunio in itinere per tutelare chi sceglie la bicicletta per andare al lavoro. È una cosa un po' tecnica, ma che sappiamo sta a cuore al mondo ampio e in crescita dei ciclisti italiani, e ne vogliamo parlare. Per questo l'abbiamo convocata con Giulietta Pagliaccio, che è presidente della FIAB. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Buongiorno. La Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Che cosa prevede questa proposta di legge? Che immagino, insomma, voi siate tra i suggeritori di questa iniziativa. Siamo sicuramente tra i promotori di questa proposta, che data ancora molti anni fa, ma oggi finalmente sembra trovare una sua strada per questa modifica normativa. È molto semplice, come sanno tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, l'infortunio in itinere è quella copertura assicurativa che viene data al lavoratore se dovesse avere un incidente nel tragitto tra casa e lavoro. Però la legge prevede che si debba utilizzare un mezzo pubblico, mentre l'infortunio viene coperto nel caso si utilizzi il proprio mezzo, macchina piuttosto che moto o altro, se assolutamente necessitato, come si dice, cioè non ho altro modo per raggiungere il posto di lavoro. Ecco, noi si chiede semplicemente che l'assicurazione possa coprire il tragitto casa-lavoro anche in bicicletta, senza sottolineare il fatto che sia necessitato o meno, perché talvolta si utilizza la bicicletta per tanti motivi: perché è più veloce, perché è sana, perché è un mezzo appunto anche per non inquinare, ma soprattutto talvolta anche perché è il mezzo più economico. Sappiamo bene che i mezzi pubblici comunque hanno un costo. Quindi sono tante le motivazioni per cui chiediamo che questo tipo di spostamento casa-lavoro venga coperto anche per l'utilizzo della bicicletta in modo quotidiano. Ecco, senta, lei ricordava giustamente che, insomma, non è la prima volta che se ne parla. Questa volta c'è una proposta di legge, ci si prova. Lei è fiduciosa? Perché, insomma, i ciclisti aspettano questa cosa da tanto tempo. Allora, Allora, noi attendiamo questa modifica normativa veramente da molti anni. I ciclisti urbani, e parlo del cittadino che utilizza quasi quotidianamente la bicicletta, lo attende da diversi anni e c'è un aumento di questa popolazione, quindi c'è necessità che anche la normativa si adegui alle nuove basta esigenze. Pensare che si vendono più biciclette che auto, per esempio, questo è un dato già dell'anno scorso, assolutamente, insomma, in grandissima crescita. Però talvolta non va di pari passo con l'utilizzo. Peraltro questa modifica di legge non ha bisogno di risorse particolari, per cui ci aspettiamo veramente che possa avere un iter molto celere. Tra l'altro si tratta di cambiare una frase, per cui si chiede che l'assicurazione opera comunque nel caso di utilizzo di velocipedi, quindi non si richiede la necessità, ma che possa essere coperto in ogni caso l'infortunio sul tratto casa-lavoro. Tra l'altro, insomma, questo è un Parlamento, anzi è una domanda che le faccio, può essere questo il Parlamento più amico della bicicletta che ci sia mai stato? Un Parlamento molto rinnovato, sono entrati il Movimento 5 Stelle, il PD ha fatto le primarie, ci sono molti giovani, età media-bassa, forse c'è una mentalità nuova rispetto al passato, secondo lei? Registriamo questo cambiamento anche dal fatto che c'è un gruppo interparlamentare che si è costituito con l'ultima legislatura, molto nutrito, oltre 60 parlamentari di tutti gli schieramenti presenti in Parlamento, e sono 60 parlamentari che sono interessati ai temi della mobilità ciclistica e della mobilità nuova, e dunque ci auguriamo che ci sia un consenso un po' unanime per approvare questa normativa. Abbiamo qui Carlo Gabardini che va in motorino. Sì, vado. Però che voleva fare. No, però mi piace moltissimo la bicicletta. Da ragazzino andavo sempre in bici, ma adesso non ce la faccio più. Ma le volevo chiedere una cosa: il bike sharing è considerato mezzo pubblico oggi? Ecco, c'è proprio questa controversia anche, perché il bike sharing in teoria è un pezzo della mobilità del mezzo pubblico. Esatto. Bike sharing a Milano è gestito da ATM. ATM, per questo che glielo chiedo. Il trasporto pubblico, però anche su questa cosa l'INAIL ha avuto, come dire, una posizione negativa, non viene considerato pubblico perché in ogni caso è condotto da una persona. Quindi rientrerà se questa legge verrà approvata, nella nuova normativa. Noi ce l'auguriamo, seguiremo questo iter. Intanto grazie mille. Grazie a voi di aver riportato l'attenzione su questo tema, che per noi comunque è importante. Mi sembra una norma sacrosanta, assolutamente, anche perché ognuno sceglie come andare a lavorare, al di là di quello della bicicletta, comunque quello è il mezzo con cui uno ci va, quindi... Esatto. Grazie, e ricordiamo anche che c'è un appuntamento l'8 febbraio, Bici Senza Frontiere a Bologna, una grande manifestazione. Sapete che da un po' di tempo si è messa in moto tutta una ondata con il movimento Salva i Ciclisti. Non puoi dire messa in moto, però, secondo me, non si è messa in moto, si è messa in bicicletta, si è messa su due ruote. Diciamo che si è messa su due ruote una nuova ondata di ciclisti, per l'appunto. Certo. Di cui sicuramente la FIAB, con cui abbiamo appena parlato, fa parte. Appuntamento l'8 febbraio a Bologna. Ci sarò, vedo che non mi guardi un po' come per dire ci sarai. No, ma assolutamente. Ti lasciano fuori. Ascoltatori, facciamo. Io sono stato, guarda, una volta, se posso raccontare questa cosa qua, una volta che c'era la Critical Mass, quando il giovedì a Milano tutti vanno in giro con la bicicletta. Io stavo andando perché stava partorendo mia sorella, quindi mi nasceva una nipote ed ero con il motorino. Sono passato un po' in mezzolo. All'inizio hanno bloccato, ho chiesto veramente scusa perché effettivamente era sbagliato, e poi mi hanno scortato fino all'ospedale dove poi è nata mia nipote. Fantastico, questa è una bella storia. La mia nipote numero 9. Ti vuoi candidare a vincere il premio? Sì, in realtà io volevo i biglietti, io speravo la mostra di Munich. Però cercherò di non darli, perché così li prendiamo noi. Abbiamo solo un intervento oggi, che sicuramente vincerà, perché essendo il solo è anche per forza il migliore. O va in gara con quelle di sabato prossimo, facciamo delle primarie. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Dario da Pesaro, buongiorno. Sì, buongiorno. Benvenuto. No. Grazie. Io, guardi, chiamo, non sono neanche nello stato d'animo giusto per parlare, quindi probabilmente faccio fatica anche a esprimermi, ma telefono Ci guardi, dica, ci dica. Sono 4 anni dal 2011 che io ho subito l'alluvione del 2011. Mm. Praticamente mi ha distrutto tutto il laboratorio, tutte le materiali. Ma dove? Ci dice dove? A Pesaro, io sono, diciamo, Marche Nord, vicino alla Romagna, in provincia di Pesaro. L'alluvione del marzo 2011. Ecco, dopo, perché questa era una cosa già che si poteva prevedere, perché sì, erano anni che io denunciavo sia la provincia che il comune, siccome ci sono 2 corsi d'acqua, un fiume e un fossato grosso, che minacciavano ogni tanto per la scarsa manutenzione. Per quello dico, fate questi interventi. Beh, morale della favola, per sintetizzare, anche perché sì, il sì, tempo, ecco, praticamente non sono mai intervenuti, ma infatti quel periodo di tutte queste piogge hanno praticamente tracimato questi fiumi, questi, praticamente... Cioè, sta dicendo che era prevedibile, tanto che lei l'aveva anche detto all'amministrazione comunale, questo? Va bene, guardi, purtroppo grazie Dario, grazie per la sua testimonianza che raccogliamo. Ce ne sarebbero migliaia di queste cose, purtroppo l'abbiamo detto, insomma, in apertura. Noi speriamo di avere contribuito a dare un messaggio positivo con l'intervista con cui siamo partiti e questo appello denuncia del sindaco, ex sindaco Finiguerra. Carlo da Varese, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Chiamavo per il mio quasi concittadino Maroni, essendo di Lozza, se non ha cambiato di recente, quindi un comune confinante sì, con Varese, bellissimo comune. Complimenti. Volevo rammentare a Maroni che sì, la distanza dal maggior centro delle scuole a Varese alle stazioni è di almeno 1000-1500 metri, cioè 1,5 km. Quindi? Quei 500 metri sì, sono una goccia. Soprattutto perché, diciamo, sei 1,5 km, nel chilometro e mezzo sicuramente possono esserci 96 slot machine. Se lei lo pensa, un raggio comunque è percorso tutti i giorni da oltre 1000. Ho capito. Però scusi, con questo principio qua non va mai bene niente. Insomma, No. 500 metri sono più, per esempio, di quelli che aveva provato a definire il governo Monti. No, va benissimo. Ma voglio dire, rischia di essere infruttuoso. Va bene. Mi è sembrato di capire. Grazie Carlo, grazie. No, ci dobbiamo fermare qua. È inutile approfondire adesso in chiusura di trasmissione su questa cosa. Insomma, il segnale Maroni l'ha dato. Poi sì, infatti, ognuno va letto più come un segnale, perché è chiaro per tutti che in realtà chiunque può farli a piedi 500 metri. Quindi non è che sia un vero deterrente. Ognuno giudicherà. Adesso ci mettiamo tutti in coda. A scrivere frasi e parole d'amore sulle tene rosa o blu come il mare, e poi vado in posta, le devo indicare, così prendo la bici, saluto gli amici che sono infelici dei miei sacrifici, raggiungo la posta con passo alla moda, ma un vecchio il piccione mi dice c'è coda. Vogliamo parlare di questa originale iniziativa. La tua coda allo sportello da oggi la prendo io, ma non a gratis, a 10 euro l'ora, credo. Lo chiediamo all'ideatore di questa iniziativa, Giovanni Cafaro. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Lei ha messo dei volantini con questo titolo in giro per Milano? Sì, è vero. Sì, ha sfruttato il momento dell'IMU? Soprattutto il momento dell'IMU, ma non solo quello fondamentalmente, anche altre situazioni che si verificano, certo, puntualmente ogni giorno. Perché andare alle poste è una scocciatura. E lei si propone di fare la coda per gli altri. Io è da anni che penso che una startup, un'impresa che si proponga seriamente di fare questa cosa farebbe i milioni, perché tanta gente secondo me pagherebbe qualcosa pur di non fare le code. Ha ricevuto chiamate, perché lei in questo volantino ha messo il suo numero. Sì, esatto, ho messo il mio numero, ho ricevuto diverse chiamate e la cosa, pur essendo partito da pochissimo, la cosa sta prendendo piede, insomma, mi stanno chiamando molte persone, sto andando in giro all'Agenzia delle Entrate, alle poste, in banca, assicurazioni. Qui si sta facendo un sacco di belle code. Ha bisogno di dipendenti o le fa tutte lei le code? Per il momento ce la faccio da solo, poi in futuro spero magari di aver bisogno di una mano. Quindi... Anche perché lei, poi abbiamo letto un po' la sua storia sui giornali che hanno ripreso questa iniziativa, questa notizia, lei ha perso il lavoro, credo, da non molto. Sì, io ero amministratore di una società, poi nel settore abbigliamento, gestivo dei negozi di abbigliamento, poi la società si è trasferita all'estero, quindi chiaramente pur mandando tantissimi curriculum mi sentivo sempre dire sei troppo qualificato, insomma, stupendo. Va bene, a questo punto il lavoro me lo invento. E quindi... non è troppo qualificato per stare in coda? Ma guardi, secondo me ci vuole tanta pazienza e tanto controllo, perché purtroppo oggi la burocrazia in Italia è ancora molto alta, quindi lo vediamo tutti i giorni e continuo, quindi... Però scusi, l'iniziativa è originale, lo ripeto, è bellissima, e tra l'altro io credo che potrebbe seriamente diventare anche un'impresa, io lo credo seriamente. 10 euro l'ora, però se uno cioè rischia di costare cara questa coda, no, da un certo punto di vista, perché mettiamo che alle poste ci sia un intasamento per cui sta 3 ore, uno per pagare un bollettino di una multa di 30 euro ne spende altri 30 per la coda, lei forse dovrebbe cumulare più richieste e fare... Sì, l'economia di scala. Esatto, sì, in genere faccio così. Poi è normale che cerco di sfruttare anche i momenti in cui magari non ci sono delle punte massime di coda, magari vado al mattino quando normalmente non c'è tanta coda, quindi diciamo cerco chiaramente di non gravare sulla situazione, visto che comunque siamo anche un momento difficile E poi sul volantino c'è anche scritto minimo 2 ore, e non riusciamo a capire se è una questione di ottimismo o di pessimismo, nel senso che come minimo 2 ore? E se una volta la coda, diciamo, dura un quarto d'ora, devi pagare il minimo 2 ore, è una regola di ingaggio. Consideri che poi c'è lo spostamento, perché io mi sposto a volte anche non solo a Milano ma anche in provincia, quindi chiaramente c'è voglio dire, però normalmente se ci sono delle situazioni che in 5 minuti la coda si esaurisce, cosa un po' difficile, chiaramente in quel caso non viene applicata questa. Senta, per chi fosse interessato, anche dopo aver sentito questa intervista, dove la trova? Non diamo il numero di telefono perché forse... Vogliamo darlo? Possiamo dare tranquillamente il numero di cellulare, che è un altro mio numero di cellulare, quindi chiaramente che è 331 75 75 79 657. Benissimo. Lo postiamo. Me lo sono segnato anch'io, quindi dopo lo ripetiamo. Lo postiamo anche su Facebook. E intanto la ringraziamo, le auguriamo in bocca al lupo per questa originale e positiva iniziativa. Grazie Giovanni. Grazie Cafalo. Mille. Grazie mille. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Allora, vai, ripeti il numero. 331 75 79 657. Perfetto. Allora, noi a questo punto cosa facciamo? Vi salutiamo, diciamo che i biglietti per la mostra di Muke oggi li vince Paolo da Piacenza, la cui storia abbiamo abbondantemente richiamato. Assolutamente. Aspettiamo però i vostri ingaggi, dove ci dite che progetto avete e noi vi richiamiamo per vedere se state mantenendo la promessa. Benissimo. Incastratevi, mettetevi in difficoltà. Grazie ad Andrea Piana, che ha scritto con noi il programma, Giorgio De Luca in redazione, Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo domani, buona giornata. Ciao a tutti. Ciao. Energia pulita, incentivi per agricoltura e turismo, differenziata obbligatoria specialmente nelle città del sud dove regna il caos più totale. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.